Terzo anello, ad alta voce, Guerra e pace, di Lev Tolstoi. Nel corso della battaglia di Borodino, il principe Andrei viene gravemente ferito e anche l'esito della battaglia è molto incerto. È come, dice Tolstoi, se entrambi gli eserciti fossero sconfitti. Napoleone intuisce il pericolo nel procedere verso Mosca, ma ormai le cose sono a un tale punto che non è possibile tornare indietro. Frattanto a Pietroburgo, Elena, che si è convertita al cattolicesimo, cerca di fare annullare il suo matrimonio con Pierre. Entrata in contatto con un dignitario e con un principe straniero, la donna, essendo diventata cattolica, si ritiene libera dall'impegno preso con una religione falsa e dunque libera di porsi il problema di chi scegliere tra i due. A Pietroburgo, in un momento, si sparse la voce non che Hélène volesse divorziare da suo marito. Se si fosse sparsa questa voce, moltissimi sarebbero insorti contro un proposito così illegale. Ma senz'altro si sparse la voce che l'infelice, interessante Hélène si trovava nel dubbio quale dei due pretendenti avrebbe sposato. La questione non era più di sapere fino a che punto ciò fosse possibile, ma soltanto quale dei due partiti fosse il più vantaggioso e come la corte avrebbe guardato la cosa. C'erano, è vero, delle persone piene di vecchi pregiudizi che non sapevano elevarsi all'altezza della questione e vedevano in quel progetto una profanazione del sacramento del matrimonio, ma erano poche e tacevano. La maggior parte, invece, si interessava della fortuna che era toccata ad Hélène e di sapere quale scelta fosse la migliore. La sola Maria Dmitrievna Akhrosimova, venuta quell'estate a Pietroburgo per incontrarsi con uno dei suoi figli, si permise di esprimere francamente la sua opinione, contraria a quella comune. Incontrando Elena a un ballo, Maria Dmitrievna la fermò nel mezzo della sala e, nel silenzio generale, con la sua ruvida voce le disse: «Voi altre usate ora sposarvi col marito vivo. Forse credi d'avere inventato qualche cosa di nuovo? Sei stata preceduta, madre mia. È una cosa inventata da un pezzo. In tutti i bordelli si fa così». E dette queste parole, Maria Dmitrievna, tirandosi su le larghe maniche, col suo solito gesto di minaccia e guardandosi intorno severamente, attraversò la stanza. Al principio di agosto l'affare di Hélène si era perfettamente definito. Ed ella scrisse a suo marito, che l'amava molto a quel che ella credeva, una lettera in cui gli partecipava la sua intenzione di sposare NN e l'informava d'essersi convertita all'unica e vera religione, pregandolo di adempiere tutte le formalità necessarie al divorzio, delle quali gli avrebbe riferito il portatore della lettera. Questa fu portata in casa di Pierre nel momento che egli si trovava sul campo di Borodino. I Rostov restarono in città fino al 1° settembre, cioè fino alla vigilia dell'ingresso del nemico a Mosca. Dopo che Petia era entrato nel reggimento dei cosacchi di Obolensky, la contessa era stata presa dalla paura. L'idea che tutti e due i suoi figli si trovavano alla guerra, che tutti e due erano usciti di sotto alle sue ali materne, che oggi o domani uno di loro, o forse anche tutti e due insieme, come i tre figli di una sua conoscente, potevano essere uccisi, le veniva in mente ora per la prima volta, in quell'estate, con una crudele chiarezza. Tentò di far tornare Nicolai, voleva andare lei stessa da Petia, farlo destinare in qualche posto a Pietroburgo, ma l'una e l'altra cosa si dimostrarono impossibili. Petia non poteva tornare se non insieme col reggimento o passando ad un altro reggimento operante. Nicolai si trovava in qualche parte al campo e, dopo la sua ultima lettera, nella quale descriveva minutamente il suo incontro con la principessina Maria, non aveva dato più notizie di sé. Dopo molti consigli e molti discorsi, il conte inventò finalmente un mezzo per calmare la contessa. Fece trasferire Petia dal reggimento di Obolensky in quello di Bezukhov, che si formava nelle vicinanze di Mosca. Negli ultimi giorni di agosto i Rostov ricevettero una lettera di Nicolai. Egli scriveva dalla provincia di Voronezh, dove era stato mandato a prendere dei cavalli. Questa lettera non tranquillizzò la contessa. Sapendo uno dei suoi figli fuori pericolo, tanto più cominciò a stare in ansia per Petia. Sebbene fin dal 20 agosto quasi tutte le conoscenze dei Rostov fossero partite da Mosca, sebbene tutti esortassero la contessa ad andarsene il più presto possibile, ella non voleva sentir parlare di partenza fino a quando non fosse tornato il suo tesoro, il suo adorato Petya. Questi giunse il 28 agosto. La tenerezza appassionata e morbosa con la quale lo accolse la madre non piacque a quell'ufficiale di 16 anni. Benché la madre gli nascondesse la sua intenzione di non lasciarlo ormai più uscire di sotto alle sue ali, Petya capì i suoi disegni e, temendo istintivamente di potersi ammollire ed effeminare presso la madre, così egli pensava fra sé, si comportò freddamente con lei, la sfuggì e durante la sua permanenza a Mosca rimase esclusivamente in compagnia di Natascia, per la quale aveva sempre avuto una particolare tenerezza fraterna, quasi da innamorato. Per la solita noncuranza del conte, il 28 agosto nulla era ancora pronto per la partenza, e i carri, che si aspettavano dalle tenute della provincia di Ryazan e di Mosca per portar via da casa tutta la roba, giunsero soltanto il 30. Dal 28 al 31 agosto tutta Mosca fu in faccende e in movimento. Ogni giorno, dalla barriera di Dorogomilovskaya, entravano a Mosca migliaia di feriti della battaglia di Borodino e migliaia di carri carichi di gente e di masserizie uscivano da altre barriere. Tutti sentivano, pur senza farlo vedere, che Mosca sarebbe stata inevitabilmente abbandonata e che bisognava scappare e mettere in salvo la propria roba al più presto. Si sentiva che tutto doveva spezzarsi e mutarsi ad un tratto, ma fino al 1 settembre niente ancora era mutato. Come un delinquente che è condotto al supplizio sa che da un momento all'altro dovrà perire, ma pur si guarda intorno e si accomoda il berretto malmesso, così Mosca involontariamente seguitava la sua solita vita, benché sapesse che era vicino il momento della catastrofe che avrebbe spezzato tutte quelle condizioni consuete di vita alle quali si era abituati a sottomettersi. Durante quei 3 giorni che precedettero la presa di Mosca, tutta la famiglia Rostov si trovò occupata in diverse cure domestiche. Il capo della famiglia, il conte Ilya Andreevich, girava continuamente per la città, raccogliendo da tutte le parti le voci che correvano, e a casa dava disposizioni generali, superficiali e affrettate per i preparativi della partenza. La contessa sorvegliava l'imballaggio della roba, era scontenta di tutto e andava continuamente dietro a Petya che la sfuggiva, gelosa di Natascia con la quale egli passava tutto il tempo. Sonia era la sola ad occuparsi della parte pratica della faccenda, l'imballaggio degli oggetti. Ma Sonia era particolarmente triste e taciturna in tutto quell'ultimo tempo. La lettera di Nicolà, nella quale egli menzionava la principessa Maria, aveva suscitato in sua presenza le liete considerazioni della contessa, che nell'incontro della principessina Maria con Nicolà vedeva un segno della divina provvidenza. Petya e Natascia non soltanto non aiutavano i genitori, ma per lo più davano noia a tutti in casa e li impacciavano. E quasi tutta la giornata si sentivano in casa le loro corse, i loro gridi e le loro risate senza motivo. E si ridevano ed erano allegri non perché avessero motivo di ridere, ma erano di umore lieto ed allegro e perciò qualunque cosa accadesse era per loro motivo di allegria e di riso. E più di tutto, essi erano lieti perché la guerra era alle porte di Mosca, perché si sarebbero battuti alle barriere, perché si distribuivano le armi, perché tutti scappavano, se ne andavano chissà dove e, in generale, perché accadeva qualcosa di insolito. E questo è sempre piacevole per la gente, e specialmente per la gente giovane. Il sabato 31 agosto, nella casa dei Rostov, tutto era sottosopra. Tutte le porte erano spalancate, tutti i mobili messi fuori o tolti dai loro posti, gli specchi, i quadri staccati dalle pareti. Nelle stanze c'erano dei bauli, del fieno sparso, delle carte da imballaggio e delle funi. Contadini e servitori, portando fuori la roba, camminavano a passi pesanti sul pavimento di legno. Nel cortile si affollavano i carri dei contadini, alcuni già carichi e legati con funi, altri ancora vuoti. Natascia era mortificata di non fare nulla in casa mentre tutti erano così occupati e più volte fin dalla mattina s'era provata a fare qualcosa, ma non aveva l'anima a quel che faceva ed ella non sapeva far nulla senza metterci tutta l'anima e tutte le sue forze. Aveva preso in mano il vecchio vestito da ballo e aveva cominciato a pensare a cose tutte diverse da quelle che avrebbero dovuto occuparla ora. Tolsero Natascia da quella meditazione i discorsi delle donne nell'attigua stanza della servitù e il rumore dei loro passi affrettati dalla stanza della servitù alla scala di servizio. Natascia si alzò e guardò dalla finestra. Sulla strada era fermo un enorme convoglio di feriti. Natasha si buttò un fazzoletto bianco sui capelli e, tenendolo con tutte e due le mani per le cocche, uscì in strada. L'antica guardarobiera, la vecchia Mavra Kuzminichna, avvicinatasi ad un carro sul quale era una specie di tenda fatta di stuoie, si mise a discorrere con un giovane e pallido ufficiale che era sdraiato su quel carro. «Sicché voi non avete nessuno a Mosca?» diceva Mavra. «Stareste tranquillo in qualche casa, magari qui da noi, i signori vanno via». «Non so se lo permettono», disse con debole voce l'ufficiale. «Ecco il comandante, domandateglielo». E mostrò un grosso maggiore che tornava indietro per la strada, lungo la fila dei carri. Natasha guardò in viso con occhi spaventati l'ufficiale ferito e subito corse incontro al maggiore. «I feriti possono restare qui in casa nostra?» domandò. Il maggiore le rispose affermativamente. Il carro, dove era l'ufficiale sotto la tenda di stuoie, svoltò nel cortile dei Rostov e decine di altri carri coi feriti cominciarono, dietro invito dei cittadini, ad entrare nei cortili e ad avvicinarsi agli ingressi delle case di via Povarskaya. A Natasha aveva fatto un visibile piacere questo entrare in relazione con gente nuova, fuori dalle consuetudini usuali. Insieme con Mavra Kuzminichna cercava di far entrare nel cortile di casa sua quanti più feriti potesse. Nella sala incontrò il padre, che era tornato a casa con cattive notizie. «Abbiamo tardato troppo», disse il conte con involontario dispetto. «Anche il club è chiuso e la polizia se ne va». «Papà, non importa se ho fatto venire in casa i feriti?» gli chiese Natasha. «No, certo», disse il conte distrattamente. «Si tratta di ben altro e ora vi prego di non occuparvi più di sciocchezze, ma di aiutare a imballare e partire domani». E il conte impartì lo stesso ordine al maggiordomo e ai domestici. A pranzo Petia, che era tornato, raccontò le sue novità. Disse che quella mattina il popolo aveva preso le armi che c'erano al Cremlino e che, sebbene nel proclama di Rastopchin fosse detto che egli avrebbe dato la voce con due giorni di anticipo, era certo che era già stato dato l'ordine che l'indomani tutto il popolo armato salisse alle Tre Montagne, dove ci sarebbe stata una grande battaglia. La contessa, con timido spavento, guardava il viso lieto e accalorato di suo figlio mentre egli diceva tutto questo. Dopo il pranzo chiamò il conte e lo scongiurò fra le lacrime di farli partire tutti al più presto, quella notte stessa, se era possibile. Con l'istintiva astuzia femminile dell'affetto, lei, che fino a quel momento aveva mostrata un'assoluta tranquillità, diceva che sarebbe morta di paura se non si partiva quella notte stessa. Senza fingere, adesso ella aveva timore di tutto. Era giunto l'ultimo giorno di Mosca. Era un tempo d'autunno chiaro, allegro. Era domenica. Come nelle solite domeniche, le campane suonavano per la messa in tutte le chiese. Pareva che nessuno potesse ancora capire ciò che aspettava Mosca. Svegliandosi la mattina del primo, il conte Ilya Andreevich uscì pian piano di camera per non destare la contessa che s'era addormentata soltanto verso giorno, e nella sua veste da camera di seta viola uscì nel vestibolo. I carri, già legati, stavano nel cortile. Presso la scalinata stavano le carrozze. Il maggiordomo, ritto presso la porta, discorreva con un vecchio attendente e con un giovane e pallido ufficiale dal braccio fasciato. «Ebbene, è tutto pronto, Vasilic?» disse il conte. «Si può attaccare anche subito, eccellenza». «Bene, ora la contessa si sveglia e ce ne andiamo, se Dio vuole». «Voi chi siete, signori?» fece rivolto all'ufficiale. «State qui in casa mia?» L'ufficiale si accostò. Il suo pallido viso divampò a un tratto d'un acceso rossore. «Conte, fatemi una grazia. Permettetemi, per amor di Dio, di occupare un posticino qualunque sui vostri carri. Qui non ho nulla e su un carro starò benissimo». L'ufficiale non aveva ancora finito di parlare che l'attendente rivolse al conte la stessa preghiera per il suo padrone. «Già, si mise a dire in fretta il conte. Sono molto, molto contento. Vasilic, disponi tu, fa vuotare là uno o due carretti, quel che ci vuole», disse il conte, dando qualche ordine in termini vaghi. Ma nello stesso momento l'espressione di viva riconoscenza dell'ufficiale fortificò i suoi propositi. Il conte si guardò intorno. Nel cortile, sul portone, a una finestra dell'ala laterale, apparivano feriti e attendenti. Tutti guardavano il conte e si avviavano verso di lui. «Eccellenza, favorite venire nella galleria. Che cosa ordinate per i quadri?» disse il maggiordomo. E il conte, insieme con lui, andò in casa, ripetendo l'ordine di non respingere nessun ferito che chiedesse di partire. «Si può togliere qualche cosa?» aggiunse con voce sommessa, come in segreto, quasi temesse d'essere udito da qualcuno. Alle 9 si svegliò la contessa. E Matriona Timofeevna, la sua antica cameriera, che aveva presso la contessa l'ufficio di comandante dei gendarmi, entrò ad annunziare alla sua antica padroncina che tutti i carri erano stati slegati, la roba tolta e caricati i feriti che il conte, nella sua semplicità, aveva ordinato di portare via con loro. La contessa fece chiamare il marito. «Che succede, amico mio? Sento che si scaricano di nuovo i bagagli!» «Sai, ma cher, ecco quel che ti volevo dire... Ma chère contessa, è venuto da me un ufficiale a pregarmi di dare qualche carro per i feriti. È tutta roba che si può ricomprare, no? Ma loro come potrebbero rimanere qui? Pensa un po'. Ci sono degli ufficiali qui fuori. Siamo stati noi stessi a chiamarli, sai? Davvero penso, ma chère, ecco, mia cara, che li portino. Che fretta c'è? Senti, conte, sei arrivato al punto che non ci danno più niente per la casa e ora vuoi rovinare anche tutto l'avere nostro, cioè l'avere dei nostri figli. Dici tu stesso che in casa c'è roba per 100.000 rubli. Io sono contraria, assolutamente contraria. Di quello che vuoi, per i feriti c'è il governo, lo sanno. Guarda, là di faccia, dai Lopucin, ieri l'altro hanno portato via tutto fino all'ultimo. Ecco come fa la gente. Soltanto noi siamo stupidi. Abbi compassione, se non di me, dei tuoi figli. Il conte agitò le braccia e senza dire niente uscì dalla stanza. Verso le 2, le 4 vetture dei Rostov, coi cavalli attaccati e tutte cariche, stavano davanti all'ingresso. I carri coi feriti, uno dietro l'altro, uscivano dal cortile. La carrozza nella quale era trasportato il principe Andrei, passando davanti alla porta, attirò su di sé l'attenzione di Sonia, che insieme con una cameriera accomodava il sedile per la contessa nella sua enorme e alta vettura chiusa che aspettava ai piedi della scala. «Di chi è quella carrozza?» domandò Sonia, affacciandosi allo sportello della vettura. «Ma non sapete, signorina?» rispose la cameriera. «C'è un principe ferito. Ha passato la notte da noi e con noi viene via. Ma chi è? Come fa di cognome?» «È proprio il nostro antico fidanzato, il principe Balkonski», rispose sospirando la cameriera. «Dicono che stia per morire». Sonia saltò giù dalla carrozza e corse dalla contessa. La contessa, già vestita da viaggio, con lo scialle e il cappello, stanca, passeggiava per il salotto, aspettando quelli di casa per sedersi con loro a porte chiuse e pregare prima della partenza. Natascia non c'era nella stanza. «Maman», disse Sonia, «il principe Andrei è qui, ferito a morte. Viene via con noi». La contessa, spaventata, aprì gli occhi e, prendendo per il braccio Sonia, si volse a guardarla. «E Natascia?» disse. «Natascia non lo sa ancora, ma lui viene con noi», disse Sonia. «E dici che sta per morire?» Sonia accennò di sì col capo. La contessa abbracciò Sonia e cominciò a piangere. «Le vie del Signore sono impenetrabili», pensò, sentendo che in tutto ciò che accadeva ora cominciava a manifestarsi la mano onnipotente che prima si nascondeva allo sguardo degli uomini. Raramente Natascia aveva provato un sentimento così gioioso come quello che provava ora, seduta in carrozza a fianco della contessa, guardando le mura di Mosca, abbandonata e atterrita, che le passavano lentamente davanti agli occhi. Di tanto in tanto si affacciava allo sportello della carrozza e guardava avanti e indietro il lungo convoglio dei feriti che li precedeva. Quasi innanzi a tutti vedeva il mantice abbassato della carrozza del principe Andrei. Non sapeva chi ci stesse, ma ogni volta che osservava la fila dei veicoli, cercava con gli occhi quella carrozza. Sapeva che era avanti a tutti. Girando intorno alla torre Sukhareva, Natascia, che osservava con vivace curiosità la gente che passava su qualche veicolo o a piedi, a un tratto esclamò tutta allegra e sorpresa. «Mamma, Sonia, guardate, è lui! È Bezukhov!» disse Natascia, sporgendosi dallo sportello della carrozza e guardando un uomo alto e grosso in gabbano da cocchiere. «Ma no, non è lui. Ma si possono dire tante sciocchezze. «Mamma!» gridò Natascia. «Ci scommetto la testa che è lui! Ve lo assicuro! Ferma! Ferma!» gridò al cocchiere. Ma il cocchiere non poteva fermare, perché dalla via Meshanskaya venivano ancora carrozze e carri e si urlava contro i Rostov perché si affrettassero e non impedissero gli altri. Effettivamente, molto più avanti per la strada, tutti i Rostov videro Pierre, o un uomo che somigliava straordinariamente a Pierre, in gabbano da cocchiere, che camminava per la strada con la testa china e il viso serio, accanto a un piccolo vecchietto glabro che aveva l'aspetto d'un domestico. Questo vecchietto notò il viso affacciato allo sportello della carrozza e, toccando rispettosamente il gomito a Pierre, gli disse qualcosa, mostrando la carrozza. Pierre per un pezzo non riuscì a capire di che parlasse, tanto sembrava immerso nei suoi pensieri. Finalmente, quando capì, guardò dove indicava l'altro e, riconosciuta Natascia, nel medesimo istante, cedendo ad un primo impulso, si diresse rapidamente verso la carrozza. Ma, fatta una decina di passi, essendosi certo ricordato di qualcosa, si fermò. Il viso di Natascia, affacciato allo sportello, splendeva di una tenerezza canzonatoria. «Piotr Kirillovich, venite! Vi abbiamo riconosciuto! Che sorpresa!» gridò stendendogli la mano. «Come mai? Perché siete così?» Pierre prese la mano che gli era tesa e, camminando, poiché la carrozza continuava a muoversi, la baciò goffamente. «Che fate, conte?» domandò la contessa con voce meravigliata e compassionevole. «Che? Perché? Non me lo domandate», disse Pierre, e gettò un'occhiata a Natascia, lo sguardo della quale, sfavillante e gioioso, egli lo sentiva anche senza guardarla, lo inondava del suo fascino. «Che fate? Restate a Mosca?» Pierre taceva. «A Mosca?» disse poi interrogativamente. «Sì, a Mosca. Addio. Ah, vorrei essere un uomo e resterei certamente con voi. Ah, com'è bello questo», disse Natascia. «Mamma, permettetemi di restare». Pierre guardò distrattamente Natascia e voleva dire qualcosa, ma la contessa lo interruppe. «Abbiamo sentito che avete partecipato alla battaglia». «Sì», rispose Pierre. «Domani ci sarà di nuovo una battaglia», cominciò, ma Natascia lo interruppe. «Ma che avete, conte? Non siete come al solito». «Ah, non mi interrogate, non mi interrogate. Non ne so nulla neanche io. Domani... ma no, addio. Addio», disse. «Son tempi tremendi». E scostandosi dalla carrozza, ritornò sul marciapiede. Natascia rimase un pezzo ancora affacciata allo sportello, illuminandolo col suo sorriso felice, tenero e un po' canzonatorio. Guerra e pace, di Lev Tolstoi. Traduzione di Enrichetta Carafa d'Andria per le edizioni Einaudi. Una lettura di Sandro Lombardi, musicata da Paolo Terni, a cura di Laura Palmieri. Il terzo anello @rai.it